Ad alta voce. Francesca Gatto legge Grace Paley. Il concorso. Non serve che mi alzi presto o che poltrisca fino a tardi. La giornata vola via comunque. In estate o in inverno, con l'ombra di alberi fronzuti o il fantasma di alberi spogli, non riesco mai ad attaccare i miei Rice Krispies prima di mezzogiorno. Sono ambizioso, ma si tratta di un progetto a lunga scadenza. Nel mio intimo prendo di mira una stella, ma ho a metà della vita per arrivarci. Nel frattempo tengo gli occhi bene aperti e mi vesto con eleganza. Alla visita, ho detto allo psichiatra dell'esercito, sì, le ragazze mi piacciono. È così, infatti. Non mia sorella l'ideale di qualsiasi ruffiano, ma le ragazze snelle e tenere, o bene in carne, scure nell'intimo, sciupate dal tempo. Non mia madre, che avrebbe fatto bene a restare fra le pagine di Freud. Il senso dell'umorismo non mi manca. La mia ultima ragazza era ebrea, che di solito significa affettuosa, sollecita nel nutrirti e attenta alle possibilità di impiego. Non amano che tu lavori troppo, così sembra, finché non ti hanno accalappiato e allora giù la testa, bastardo. Una ragazza di stazza media, taglia 46, un'anfora di creta con i manici, facile da afferrare. L'ho incontrata sotto la pioggia dopo un avvenimento culturale alla Cooper Union o alla Washington Irving High School. Non aveva l'ombrello e io sì, così l'ho accompagnata a casa mia. Ci è rimasta diverse ore, una cavità aperta in uno sbadiglio, mezza addormentata. La pioggia pioveva sull'albero di ailanto davanti alla finestra, il vento tormentava gli scuri della medesima antiquata finestra e io me la sono presa comoda a fare il caffè e a tagliare un pezzettino di torta. Non credo nella forza e avrei anche aspettato, ma la sua solitudine era troppo grande. Per alcune settimane ci siamo divertiti molto. Lei portava panini e bagel presi dove si riesce ancora a requisire cose del genere. La domenica arrivava da Brooklyn con un pollo da arrostire. Pensava che fossi troppo magro. È vero, ma alle ragazze piace così. Se non sei magro, capiscono subito che non avrai mai bisogno delle loro speciali capacità affettive. Venne la primavera, disse. Dove siamo diretti? Con queste precise parole. Ora, io conosco bene questo atteggiamento. Evidentemente per gran parte delle donne mangiar bene e divertirsi sono cose troppo belle. Il sole prosciugò il mese di luglio e lei ricominciò. Freddy, così non andiamo da nessuna parte, io non ci sto più. In quelle domeniche di vento andavamo alla spiaggia. Sua madre doveva averle insegnato cosa dire. Lo diceva con testarda convinzione. Un venerdì sera di settembre tornai a casa da una festa mal riuscita, piena di facce strane. Non c'erano ragazze sole e dopo qualche conversazione educata, con le vantate proprietà di altri uomini, cominciai a star male e decisi di tornare a casa. In una poltrona, intenta a sfogliare un numero di Art News pieno di olandesi che avevano raggiunto gli 80 anni in 40, c'era Dorothy. Accanto a lei, una valigetta 24 ore. Riuscì appena a vederla in faccia quando si alzò per salutarmi. Preparò il tè e fece sbollire un po' del mio ardore nella notte umida. «Senti, Freddy», disse. «Ho detto a mia madre che andavo da Leona a Washington per 2 giorni e mi sono messa d'accordo con Leona. Sono tutti disposti a coprirmi», disse, versando il tè e tirando fuori delle tartine cosparse di semi provenienti da qualche recondito fornaio di Flatbush Avenue. Tutto per cambiare il corso del mio appetito e fare in modo che la conversazione andasse in porto. «No, Freddy, ascolta, tu non ti prendi sul serio, per questo non prendi sul serio nient'altro, né il lavoro né le relazioni. Freddy, non mi ascolti, ridi pure, ma sei un primitivo. Vivi alla mercé dei tuoi istinti. Se sei vicino a una radio accesa, ascolti musica. Se sei vicino a un frigo aperto, ti ingozzi. Se hai una ragazza sotto mano, la spogli e la metti allo spiedo». «Beh, Dotti, non essere così schematica», dissi. «Ogni uomo ha il suo girarrosto». «Che cara ragazza! Bastava una parola volgare e mi copriva di baci e carezze, rossa come il fuoco, felice che l'East River la separasse da sua madre. Povera ragazza, era vorace e generosa». La domenica sera avevo già esaurito una mezza dozzina di conversazioni e troncato alla radice il loro fondamento morale. Avevo già detto due volte «ti amo, Dotti». Il lunedì mattina mi resi conto della portata dell'impegno preso e non mi vergogno di confessare che questo mi impedì di recarmi al lavoro che avevo trovato il venerdì. La mia impressione delle donne è che sono animate da buone intenzioni, ma sospinte verso uno scopo ossessivo da un'avida tradizione. Quando Dot scoprì che avevo deciso di non accettare quel lavoro, quale lavoro? Uno qualsiasi, ecco tutto, si mise all'opera. Mi restituì la copia di 1984 che le avevo prestato e scrissi un biglietto per dire che potevo tenermi 6 bicchieri da vino che mi aveva prestato sua madre. Mi mancò molto. Non si incontra tutti i giorni una natura così gentile e aperta. Non era neanche una sciocca. Direi che possedeva una saggezza contadina. Istruzione? Poca. Aveva i capelli lunghi e scuri. Li avevo sempre visti ben pettinati o in leggero disordine, fino a quel weekend. Da non credere. Mi mancò. E in seguito non ebbi molta fortuna. I soldi da spendere erano pochi e le ragazze posseggono un intuito primordiale. Ce n'era una graziosa con un marito che si dava da fare in un'altra circoscrizione, ma non ci metteva entusiasmo. Ottenni da mio cognato un lavoro editoriale saltuario. Mio cognato è un croupier che tira sempre fuori soldi alle feste di famiglia. Le cose cominciarono ad andar meglio. Un weekend venni trascinato dai miei sbandierati profitti al Craigie Moor, un posto di villeggiatura di lusso, un paradiso pieno di star con un enorme campo da golf. Al ritorno, esausto ma modesto, me la trovai davanti, in casa, nel soggiorno. Con poche affannate parole gentili e una trovata moderna, sperava di infondere eternità a una cosa mortale, l'amore. «Dotti», feci io, allargando le braccia accoglienti, «sono sempre felice di vederti». Naturalmente, lei spiegò. «Non sono venuta per questo, credimi, Freddy, ma per parlare con te. C'è un'occasione favolosa di fare soldi, i soldi veri, se riesci a star serio per una mezz'ora. Sei così intelligente, dovresti dedicarti a qualcosa. Dio mio, potresti vivere in campagna. Voglio dire, anche se vuoi continuare a vivere da solo, potresti trovare un posto decente in una strada decente, non questa topaia». Le baciai la punta del naso. «Se vuoi restare seria, Dot, sarà meglio fare una passeggiata. Su, prendi il cappotto e raccontami come si fanno i soldi». Ubbidì. Andammo al parco e passammo un'ora a sparpagliare le foglie autunnali. «Ora, Freddy, non metterti a ridere», mi fece. «C'è un giornale yiddish, il Morgenlicht, che bandisce un concorso, ebrei nella cronaca. Ogni giorno pubblicano una foto e 2 descrizioni. Bisogna indovinare chi sono le 3 persone, aggiungere un episodio che li riguardi e spedire tutto entro la mezzanotte. Il concorso durerà almeno 3 mesi. «100 ebrei nella cronaca», dissi. «Che paese tollerante! E cosa ti danno, Dot, per queste utili informazioni?» «Primo premio, $5,000 e un viaggio in Israele. Al ritorno, 2 giorni in ciascuna delle 3 maggiori capitali dell'Occidente libero». «Che bellezza», dissi. «Ma cosa c'è sotto? Smascherare gli ebrei che nascondono le loro origini?» «Freddy, perché devi vedere tutto alla rovescia? Sono soltanto fieri di se stessi e vogliono che tutti gli ebrei si sentano orgogliosi del contributo che hanno dato a questa nazione. Tu non lo sei? Guai alla corona dell'orgoglio. Non mi importa cosa pensi. Il punto è che conosciamo qualcuno che conosce uno del giornale, uno che scrive un fondo settimanale. In verità non lo conosciamo di persona, ma il nostro cognome gli è familiare. Perciò abbiamo buone possibilità se ci impegniamo veramente. Tu sei intelligente, Freddy. Non posso farlo da sola. Mi devi aiutare. è una cosa che ho deciso di fare a tutti i costi. Una volta che Dottie Wasserman decide, è fatta. Non avevo ancora notato l'ostinazione del suo carattere. Io ne ero del tutto sprovvisto. Ogni sera di ogni giorno feriale dopo il lavoro si chinava pensosa sulla mia scrivania, indossando per tenersi calda una giacca di Harris Tweed che mi pizzicava i peli del braccio. Chissà dove all'esterno un filo di rame in costante movimento recava ogni tipo di informazione dal telefono di sua madre a Brooklyn fino al suo orecchio. Sbirciando sopra la sua spalla di tanto in tanto, scoprivo il mezzo busto di un ebreo assurto agli onori della cronaca o il ritratto completo di un mezzo ebreo. Che si trattasse di personaggi parziali non interferiva con le regole. Erano contenti e orgogliosi di ammetterli al concorso. Più lavoravamo e più Dottie diventava orgogliosa. Si accalorava, arrossiva, alzava la testa dai suoi geroglifici e leggeva la traduzione. Un signore molto rispettato, dai capelli grigi, intimo di vari ministri, amico sincero di uno o due presidenti, spesso sorpreso al parco, seduto su una panchina. «Bernard Baruch!» esclamavo io. E poi uno difficile. «Ha contribuito a sviluppare il commercio internazionale. La sua creatura vale milioni di dollari ed è stata completata l'anno scorso. Trova anche il tempo per dedicarsi a Deborah, Susan, Judith e Nancy, le quattro figlie». Fumai e ingollai uno zabaione caldo che Dotte mi aveva preparato per tirarmi su. Fissai il fornello, il soffitto, le segnali irritabili. Poi dissi calmo: «Shaim Pazzi, progetta ponti». Non dimentico mai un nome, non importa in quale carattere sia scritto. Figurati, Freddy, non sapevo nemmeno che ci fosse un ebreo tanto bravo in questo campo. Per la verità, a volte ci voleva anche un'ora per affibbiare un nome a una lista di attributi esagerati. In quei casi non potevo fare a meno di borbottare. «Beh, ne abbiamo scoperto un altro. Mettilo in lista per Auschwitz». Dottie si faceva triste. «Voglio credere che tu stia scherzando». «Beh, secondo voi perché le piacevo? Avanti, gentucola psicoanalizzata, ditelo tutti insieme in coro. Perché lei è una masochista e tu un sadico». «No, ero molto buono con lei». E ricambiavo tutto l'amore che mi dava, e mantenevo tutti gli impegni, e la chiamavo il venerdì per ricordarle del sabato, e quando avevo soldi le portavo i fiori, e una volta le ho regalato un paio di orecchini, e un'altra volta un reggiseno nero che avevo visto pubblicizzato sul giornale con certe finestrelle cucite ad arte per la ventilazione. Ce l'ho ancora io, non ha mai osato portarlo a casa. Ma non mi farò mai divorare da una donna. La mia povera madre è morta con un bel pezzo del sottoscritto sullo stomaco. A quel tempo ero militare, ma mi hanno detto che le sue ultime parole furono: «Presentate Freddy a Eleanor Farbstein». Pensate alla faccia tosta di quella donna. Infilarmi in un codicillo. Lasciò mia sorella a quel pubblicitario ed esperto culinario con i capelli a spazzola, lasciò mio padre alla commiserazione delle zie e me, il suo possesso più pregiato, il miglior pezzo di carne nel freezer del suo cuore, a Ellen Farbstein. Per la verità, anche Dottie lo diceva. «Nessun uomo è mai stato disponibile come te, Freddy. Tu sei sempre presente. Quando mi sento sola e depressa, so che basta chiamarti perché tu mi dia appuntamento da qualche parte e lasci perdere quello che stai facendo. Non pensare che non lo apprezzi». Diciamo la verità, non avevo granché da fare. Mio cognato avrebbe potuto sistemarmi bene, ma fingeva che la mia specialità fosse scrivere certi testi di cui la sua azienda aveva raramente bisogno. Perciò potevo concedere la mia intelligenza, energia e attenzione agli ebrei nella cronaca, Morgenlicht, il giornale del mattino che esce la sera prima. E così arrivammo alla fine. Dot credeva veramente che ce l'avremmo fatta. Io ne ero quasi convinto. Passammo 6 settimane a fantasticare, bevendo cioccolata calda e cocktail. Vincemmo. Ricevetti una telefonata alle 9 di un mattino di metà settimana. «Alzati ed esulta, Frederick P. Sims. Ce l'abbiamo fatta. Vedi, se si vuole davvero fare una cosa, si riesce a farla». Lasciò l'ufficio a mezzogiorno e ci incontrammo per il pranzo in un caffè all'aperto del Village. Era tutta sorrisi e trasformata dall'orgoglio. Mangiammo molto bene e fui costretto ad ascoltare la notizia seguente, parte della quale già sospettavo. Era tutto a nome suo. Qualcosa naturalmente spettava anche a sua madre. L'aveva aiutata lei a tradurre perché Dotty in realtà sapeva ben poco di Yiddish, senza contare che si preoccupava di garantire alla madre una vecchiaia serena. E in un colloquio notturno avevano deciso di mandare del denaro alla vecchia zia Lisa, che era uscita dall'Europa solo 90 minuti prima che le frontiere venissero chiuse per sempre e adesso viveva a Toronto fra sconosciuti e non connetteva più. Il viaggio in Israele e nelle tre capitali europee era per due e bisognava essere sposati. Se dai nostri documenti mancava la prova della nostra unione legale, il regolamento imponeva che partisse da sola. Prima che io potessi esternare quello che mi stava montando dentro, lei strillò. «Oh, sua madre stava aspettando davanti a Lord and Taylor!» e se ne andò. Fumai la mia miserabile pipa incrostata e considerai la mia posizione. Nel frattempo, in un'altra parte della città, le rotative giravano, le presse ronzavano e il giorno seguente gli avvenimenti figurarono da destra a sinistra sulla testata del Morgenlicht. Incorniciata, una foto mia e di Dot al tavolino del caffè mi riportò alla mente il lampo che aveva illuminato il budino di riso del giorno prima, mentre vedevo sfumare le mie modeste speranze. Mandai a Dotty una cartolina. Diceva: «Non ce la faccio». Gli accordi finali di Dotty furono complicati dalla riluttanza del governo israeliano a lasciare uscire dollari che dovevano servire al Grand Tour. Una volta entrato in quella provincia di cosmopoliti, anche il dollaro doveva rinunciare al suo ruolo edonistico di giocattolo americano e accettare la vita presbiteriana del loro utensile. In capo a due settimane arrivarono le lettere che portavano queste notizie e contenevano fotografie di Dotty sorridente in un kibbutz, doverosamente appoggiata al muro del pianto, melliflua in un boschetto di aranci. Accettai un lavoro fisso di un paio di mesi in un'agenzia, a scrivere didascalie sotto le foto di uomini onesti, tipo «Bill Feary, l'uomo che prenderà il vostro ordine di tonnellate di fertilizzante e etichetta rossa, conosce il Midwest, conosce i vostri bisogni, chiamatelo Bill e chiamatelo subito». Io ero ben vestito e con gli occhi scuri, sveglio e innocente, ferito dagli inganni dei miei simili, spinto dalla necessità e diretto in alto. Le ragazze dalle gambe snelle erano arrivate a New York col trattore, dirette a loro volta in alto, attraverso il purgatorio dell'avarizia maschile, fino al paradiso delle puttane, il palazzo della proprietà. Mentre io faticavo con i miei sogni, Dotty spendeva soldi per vedere la Torre di Pisa e andare in gondola. Decise di restare a Londra almeno due settimane perché lì si sentiva a casa. E così tutto il guadagno veniva infine lasciato in mano a stranieri che l'avrebbero investito a proprio vantaggio. Una mattina nebbiosa, il fragore delle sirene intorno all'isola di Manhattan mi ricordò un cablogramma che avevo deciso di ignorare. «Arrivo qui in Elizabeth mercoledì alle 16». Riuscii a ignorarlo tutto il giorno, dedicandomi a un paio di bionde eleganti. Andai a casa e mi sentii solo. Mi sentii solo tutta la sera. Cercai di scrivere una lettera a una ragazza atletica che avevo incontrato in un albergo di montagna alcune settimane prima. Pensai di chiamare qualche amico, ma la verità innominabile è che le donne ti isolano. Non c'era nessuno da chiamare. Ascoltai la radio, uscii a comprare un giornale del mattino, bevi una birra, lessi il giornale e aspettai che la mattina mi schiarisse le idee. Non andai al lavoro né il giorno dopo né quello successivo. Non una parola da Dot. Doveva essere distrutta dal senso di colpa. Povera ragazza. Alla fine le scrissi una lettera. Era molto forte. «Mia cara Dorothy, quando ripenso alla nostra relazione e ricordo le sue stagioni, il sole estivo che l'ha illuminata e le nevi invernali in cui si è aperta un varco, non riesco a trovare la ragione del tuo comportamento insensato. Capisco che eri influenzata dall'odioso esempio di tua madre e di tutte le madri prima di lei. Eri, in una parola, una prostituta. L'amore e l'amicizia che ti davo non ti bastavano, evidentemente. Che cosa volevi? Hai cercato di affogarmi nelle acque limacciose del tuo affetto e, poiché mi sono tirato indietro, hai programmato questa disperata vendetta. Io ti ho aiutato in buona fede, frugando nella memoria alla ricerca dei nostri correligionari che hanno suscitato l'interesse di questa nazione smaniosa di notizie. Che cosa volevi? Il matrimonio? Ah, ecco, una famiglia felice tutta mamma e papà, la soddisfatta routine in cui poterti liberamente mettere i bigodini, spalmare la crema agli angoli degli occhi. Non sono sicuro che questo funzioni per Fred. Ho 29 anni e non sto certo ringiovanendo. Tutti intorno a me, ragazzi appena laureati, prendono d'assalto la scala del successo. Dottie Wasserman, cosa posso dirti? Se pensi che io sia troppo duro, affronta il fatto che non hai osato affrontarmi. Abbiamo passato giorni meravigliosi insieme. Potremmo passarne altri. Ti offro una grande occasione per ricominciare su basi più umane. Non puoi impormi le tue vedute ristrette sulla vita. Deciditi, Dottie Wasserman. Sinceramente, nel ricordo dell'affetto. Post scriptum. Questa è la tua ultima occasione. 2 settimane più tardi ricevetti una banconota da $100. Una settimana dopo trovai sulla porta di casa un portafoglio di cuoio accuratamente confezionato, cucito a mano in Italia, e un proiettore con una scatola di diapositive che mostravano interessanti panorami dell'Europa e del Nord Africa. Dopodiché, più nulla. Francesca Gatto ha letto Grace Paley, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad altavoce @rai.it.